Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Il caffè della domenica di Maria Latella. Buon caffè e buona domenica a chi ci segue, il caffè ce l'ho qui bello bollente nella mia tazzina. Ministro Provenzano, immagino che l'abbia già preso anche lei il suo caffè della domenica. Beh, l'ho preso qualche ora fa, sono in giro, non avrei bisogno del secondo, del terzo. Va bene, lo prendiamo insieme e insieme ai nostri ascoltatori. Senta, Ministro Provenzano, dopo le elezioni regionali e il voto del referendum, tutti gli osservatori hanno convenuto sul fatto che il governo è uscito consolidato da queste prove, il che non significa che non ne abbiate altre e molto serie da affrontare. Per esempio, la prima è quella di come si pagherà la prossima finanziaria, quanti soldi europei arriveranno. Da Bruxelles le notizie non sono confortanti, perché la trattativa per il nuovo bilancio si è arenata e questo potrebbe rinviare di molto l'arrivo dei primi fondi del Recovery Fund, mentre invece i fondi 36 miliardi del MES, quelli che si potrebbero utilizzare per la sanità, sarebbero disponibili subito. È vero, Ministro Provenzano, che al Ministro del Tesoro c'è già un piano su come spenderli questi soldi del MES? Ma noi tra qualche giorno presenteremo la NADEF, in cui daremo indicazioni esatte e precise anche sui numeri che ci porteranno da qui alla legge di bilancio ad affrontare le sfide del prossimo anno. Lei diceva siamo consolidati e per la verità, diciamo, il destino di questo governo è legato alla capacità di essere all'altezza di una sfida che non è nostra, non è dell'Italia. Noi dopo la crisi peggiore della nostra storia abbiamo avuto la possibilità, anche il frutto di una battaglia politica ovviamente a Bruxelles, per aprire una stagione nuova. Questa stagione di investimenti deve creare lavoro e sviluppo per uscire da questa crisi con maggiore equità, anche a mio avviso. A questo è legato, diciamo, il destino del governo, la sua stabilità, la sua forza con l'elettorato. Noi non avremo problemi su come pagare la prossima legge di bilancio, che sarà una legge impegnativa. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso, quando, diciamo, non avevamo ancora tutti gli strumenti che sono stati messi a disposizione. Si diceva che non saremmo mai riusciti ad affrontare quella legge di bilancio. Non entro sui numeri, dico invece sugli investimenti, che noi abbiamo la necessità di metterli in campo da subito, in particolare gli investimenti sanitari, perché la vera sicurezza delle persone nelle prossime settimane è legata a questo, anche a evitare, appunto, insieme alle cautele che dobbiamo adottare. Ministro, abbiamo veramente ancora pochi minuti. Le vorrei chiedere, ma se lei dice la navigazione del governo è legata alle cose che faremo, questo significa che se a un certo punto il nodo, per esempio, del MES non si sciogliesse, il Partito Democratico e il suo segretario Zingaretti potrebbero dire: beh, allora basta navigazione del governo, facciamo la legge elettorale e torniamo a votare? Ma il tema non è il nodo del MES, il tema sono gli investimenti sanitari che noi vogliamo fare, e diciamo, come Partito Democratico, sulla base, diciamo, non di un pregiudizio politico ma del buonsenso, che se hai una linea immediatamente disponibile di risorse per quegli investimenti, sarebbe utile attivarla. Detto questo, la parola finale, come sapete, sta al Parlamento, serviranno anche i voti del Parlamento. Io credo e spero che prevalga il buonsenso, ma quegli investimenti sono indifferibili perché noi ne abbiamo bisogno. Vede, in queste settimane ci siamo tutti vantati del nostro sistema sanitario nazionale, ci viene riconosciuto anche a livello mondiale. Forse è davvero il tempo di farne il punto di forza del nostro paese. Significa anche lavoro buono, significa ricerca, significa filiere produttive. Certo. A proposito di lavoro, sì. Che il presidente dell'INPS Tridico guadagnasse 62.000 euro l'anno per un lavoro così impegnativo, a me sembra francamente ridicolo. Non possiamo chiedere che poi qualcuno venga a occuparsi di cose serie per il pubblico se è pagato relativamente poco per l'impegno che viene richiesto, anche perché il suo predecessore ne guadagnava quasi il doppio. Però, come scrive Guido Gentili oggi sul Sole 24 Ore, il modo col quale è stato aumentato lo stipendio di Tridico è molto criticabile. È stato fatto d'estate, di soppiatto, come se queste cose non si sapessero poi. Ministro, critica anche lei il modo col quale è avvenuto questo aumento, del salario del presidente Tridico? Ma guardi, io dico che diciamo, queste vicende vanno gestite con la massima trasparenza e mi fa molto piacere quello che ha detto lei, perché purtroppo nel nostro paese la politica anticasta e la retorica anticasta viene alimentata soprattutto da mezzi di informazione, gruppi economici, dove si annidano le vere caste. Era sbagliato che prendesse così poco e buona regola sarebbe che quando sostituisci un presidente gli dai lo stesso stipendio precedente. Adesso il Ministero del Lavoro ha chiarito che non ci sarà nulla di retroattivo e che ci saranno ulteriori chiarimenti, aspettiamoli per un giudizio sulla vicenda. Quello che critico è la retorica anticasta nelle istituzioni pubbliche, perché come si vede quel tipo di politica finisce per avvitarsi su se stessa e per fare male alla fine alle istituzioni e al rapporto tra istituzioni e cittadini. Ministro Provenzano, che cosa pensa di tutto, diciamo, il tormento che riguarda il vostro principale alleato di governo, il Movimento 5 Stelle? E anzi, siccome anche voi nel PD non vi siete fatti mancare niente, fino a po pochi giorni prima delle elezioni sembrava quasi che Bonaccini, Gori, eccetera, fossero all'assalto della segreteria Zingaretti, ecco, sulla base della vostra competenza in trame e lotte interne, che consiglio darebbe a Di Battista? No, guardi, io ho molto rispetto del travaglio interno del Movimento 5 Stelle, ho detto quello che penso, cioè loro devono scegliere da che parte stare. C'è la destra e la sinistra, e l'abbiamo visto anche queste elezioni regionali, ed è il tempo che facciano una scelta di campo, come alcune voci, anche coraggiose, si sono levate dentro il movimento. In fondo è la scelta che ha fatto lo stesso presidente Conte. No, guardi, non mi sento di dare consigli nella discussione interna se non quella di avere cautela. Forse si dice sempre che bisogna riflettere prima di parlare. Nel caso di Di Battista, forse si potrebbe applicare una cautela maggiore, che era quella che suggeriva uno scrittore polacco, cioè di riflettere prima di pensare. Quindi riflettere prima di pensare, questo è il consiglio del più giovane ministro del governo, se non sbaglio, no? Lei ha No, solo il più 38 giovane anni, più o ministro meno è Di Maio, non coetaneo di Di Battista. scherziamo. Più giovane è il ministro Di Maio, non li dimostra che è così giovane, Ah, Mao, è vero, ma ormai Di Maio è molto, come dire, nel suo ruolo di ministro degli esteri, è vabbè, ma vero, entro vecchio è dentro, molto guardi, più quindi. giovane, sì. Senta, lei è giovane ma è già papà di due bambini. Ieri i sindacati e le famiglie, ma credo in buona misura i sindacati della scuola, hanno promosso una manifestazione per dire che mancano i supplenti, che ci sono dei seri problemi che purtroppo si sono manifestati a ogni riapertura dell'anno scolastico, solo che quest'anno c'è il Covid e tutto è più serio e drammatico ancora. La sua esperienza di padre, suo figlio Giovanni, che ha fatto la prima elementare quest'anno, ha avuto tutto tranquillo oppure ha capito che ci sono problemi anche lì? E la sua sensazione di ministro è che, come ha detto Conte, prima di ottobre, appunto, non sarà possibile avere una normalità nelle scuole italiane. Ma guardi, per noi è stato un momento molto emozionante perché Giovanni dava la sua prima elementare ed era emozionato anche lui. No, le confesso che diciamo nella sua scuola, poi in una scuola pubblica qui a Roma, malgrado gli sforzi davvero importanti della dirigente scolastica che ci ha dato tutte le informazioni da tempo, abbiamo anche noi avuto qualche piccolo problema nella sua classe, le titolari non c'erano e l'impegno da parte di tutti, il mondo scolastico, è quello di diciamo, risolvere nel più breve tempo possibile per garantire certezza, sicurezza anche a noi famiglie. Io però davvero lascerei fuori la scuola dalla polemica politica. Noi siamo impegnati, tutte le istituzioni ad ogni livello sono impegnate, diciamo, in questa sfida che non è la sfida del governo, ma la sfida dell'Italia. Durante la pandemia forse abbiamo trascurato un po' gli effetti sui bambini, sul mondo dell'educazione che si stava avendo, malgrado gli sforzi che pure abbiamo fatto per colmare i problemi, diciamo, di didattica a distanza, fornendo tablet, noi stessi l'abbiamo fatto. E quindi adesso è il momento di concentrarsi per risolvere sulla scuola. Il più breve tempo possibile questi non è più possibile, non è più possibile noi, considerarla, no? Ministro, un elemento secondario della vita del paese, un elemento centrale. No, l'ultima domanda è un invito alla coerenza da parte di tutti, perché diciamo tutti che il primo è la vera priorità, bisogna dimostrarlo. Bisogna dimostrarlo, infatti. L'ultima domanda riguarda una proposta che è arrivata dall'ex ministro Elsa Fornero sulle colonne della stampa ieri. Elsa Fornero sostiene che ci vorrebbe una fiscalità speciale e più vantaggiosa per le donne che lavorano, perché solo così si può ottenere rapidamente un cambiamento, in attesa che arrivino gli asili nidi e tutto quello che può alleggerire la vita di una donna che lavora. Però intanto diamole un fisco più vantaggioso. Manca veramente un minuto alla fine, è una cosa che riguarda anche, come dire, le ascoltatrici, gli ascoltatori che seguiranno subito dopo l'altro programma che conduco, Nessuno è perfetto, e che parla sempre di questi temi, di donne e di lavoro. Quindi la proposta della Fornero la convince? Ma guardi, io qualche mese fa avevo avanzato una proposta che nello spirito è simile, soprattutto guardandola da sud, dove la principale questione meridionale oggi è una questione femminile, cioè le priorità sono gli asili, il welfare, liberare il potenziale delle donne, ma bisogna accompagnarlo con un incentivo forte all'assunzione delle donne. La mia proposta era una decontribuzione totale per l'assunzione delle donne nelle imprese. Questo è diversa, però lo spirito è simile a quello della Fornero. Quindi lei lo sostiene? No, io sostengo la mia. Bene, mettetevi d'accordo purché si faccia. Ci metteremo d'accordo nel governo. Comunque apprezzo lo spirito con cui la Fornero ha avanzato la sua proposta. Credo che, diciamo, sia più fattibile e anche più efficace questa che propongo. Che propone lei? Sì o no, perché siamo in chiusura. Conte ha detto che quota 100 non verrà rinnovata, è d'accordo? Sì o no? Sono d'accordo. Ecco, e quindi si procederà in questo senso. Grazie al ministro per il Sud. Buona domenica, dica. E buoni caffè. Buoni caffè a tutti voi che ci avete seguito. Adesso, come tradizione, ogni domenica c'è Nessuna è perfetta, che vi attende con molti ospiti e con la storia di un'imprenditrice che davvero vi sorprenderà.